visione che ebbe Isaia, figlio di Amoz, su Giuda e Gerusalemme. Avverrà che in tempi a venire il monte della casa del Signore sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli. Tutte le genti affluiranno ad esso e verranno molti popoli dicendo: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci istruisca nelle sue vie e camminiamo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice tra le genti ed arbitro di popoli numerosi. Muteranno le loro spade in zappe e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà la spada contro un'altra e non praticheranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Sì, tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, poiché sono pieni di indovini e di maghi simili ai filistei e patteggiano con gli stranieri. Il suo paese è pieno d'oro e d'argento e non vi è limite ai suoi tesori. Il suo paese è pieno di cavalli e non vi è limite ai suoi carri. Il suo paese è pieno di idoli. Si curvano davanti all'opera delle loro mani, davanti a ciò che fabbricarono le loro dita. Il mortale sarà abbassato, l'uomo sarà umiliato, non perdonare loro. Entra nelle rocce, nasconditi nella polvere, davanti al terrore del Signore, davanti allo splendore della sua maestà. Gli altezzosi tra i mortali saranno umiliati. La superbia degli uomini sarà abbassata. Soltanto il Signore sarà esaltato in quel giorno. Poiché il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è altero e superbo, contro tutto ciò che è elevato per umiliarlo, contro tutti i cedri del Libano alti ed elevati, contro tutte le querce di Basan, contro tutti i monti superbi, contro tutte le colline elevate, contro tutte le alte torri, contro tutti i muri fortificati, contro tutte le navi di Tarsis, contro tutte le imbarcazioni lussuose. Sarà abbassata l'alterigia dei mortali ed umiliato l'orgoglio degli uomini. Solo il Signore sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli saranno del tutto sterminati. Entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra davanti al terrore del Signore e davanti alla gloria della sua maestà, quando si leverà a far tremare la terra. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi ed ai pipistrelli i loro idoli d'oro ed i loro idoli d'argento che si erano fabbricati per adorarli, quando entreranno nei crepacci delle rocce e nelle spaccature dei massi davanti al terrore del Signore e davanti allo splendore della sua maestà, quando si leverà a scuotere la terra. Cessate di confidare nell'uomo, nelle cui narici vi è solo un soffio. Perché lo si dovrebbe stimare?